se passe des choses. Writings on the wall. Very superstitious. Letters about the fall. 13 months old, baby. Broke the looking glass. 7 years of bad luck. Things in your past. Were you believing things that you don't understand? Then you suffer. Superstition ain't the way. Very superstitious. Wash your face and dance. Rid me of that problem. Do all that you can. Keep me in a daydream. Keep me going strong. You don't wanna say. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Violet Gibson dal titolo American Circus. Come si chiamava questa canzone? Questa canzone appena detta in onda era la nostra traccia numero 5 ed era l'unica cover dell'album. E diciamo, so che anche tu non sei molto avvezzo alle cover dentro agli album, però questo diciamo che è stato un omaggio. Promettiamo di non fare singoli o lucrare su questo pezzo. È stato un omaggio solo a Stevie Wonder, che è talmente lontano dai nostri generi che insomma ci siamo permessi un po' di stravolgerlo e di farlo un po' con le nostre sonorità. Quali saranno ora i vostri obiettivi per il futuro prossimo? Diciamo che adesso i nostri obiettivi sono promuovere il più possibile il nostro album e la nostra musica, perché comunque è il primo, per cui dobbiamo farci conoscere. Abbiamo tante date, tantissime date live. Adesso le prime che mi vengono in mente sono... Ne parliamo dopo, casomai. Ah, perfetto, perfetto. E comunque sì, diciamo è promuovere il nostro album attuale. E poi sicuramente abbiamo scritto talmente tante cose che abbiamo altri 4 album almeno da fare. Sempre che... Tantissimi. Sempre che... Sì, sì, sì. Abbiamo magari un sacco altri di videoclip, cose. Non so, magari avete... Sì, su YouTube abbiamo qualche videoclip che abbiamo registrato. Tra l'altro in qualche trasmissione... In qualche emittente televisiva, però abbiamo il nostro videoclip di Go Ahead che si trova su YouTube e insomma anche quello diciamo che ha abbastanza click e ci fa piacere che la gente vada a vedere anche un po' l'impatto visivo, ecco. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? Quinto brano è la traccia numero 6 del nostro album, si intitola In My Head. Il tempo come sempre vola, noi siamo quasi in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeannuc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il Media Player. Grazie a Violet Gibson per la partecipazione. A questo punto di nuovo a voi la parola per i contatti web e di mail per info sul vostro disco ed un calendario di live già definiti. Innanzitutto grazie a te per l'opportunità di essere stati qui in questa trasmissione, che devo dire vale veramente la pena anche di seguire solo per la prima parte, per tutti i brani leggendari che hai inserito. Grazie. In questa programmazione. No, grazie a te. E poi sì, diciamo che noi abbiamo parecchie date. Quelle che mi vengono in mente, le prime, sono l'11 maggio all'X-Ray a Forlì, il 2 giugno a Parma al Bandit. Poi abbiamo 12 giugno ad Imola, un po' di festival rock, il 17 giugno a Medicina Rock Festival, dove apriamo a Maurizio Soglieri, il 28 giugno a Porto Franco, Castel Bolognese, insomma un po' di festival. Riot Fest a Massa Lombarda il 13 di luglio e 24 agosto al Frogstock a Riolo Terme, dove apriremo ai Rezofonic. Brano per chiudere questa puntata? Il brano è la nostra traccia 8 del CD ed è un omaggio agli 80s, diciamo, ed è Game of Sorrow. Ci siamo dimenticati, per il vostro CD? Per il nostro CD si trova in tutti i negozi, diciamo che fra una settimana e mezzo più o meno sarà scaricabile su iTunes, American Circus, dei Violet Gibson, e speriamo che... Sì, e comunque c'è sempre il sito della nostra etichetta, dove in catalogo ovviamente c'è il nostro CD, quindi basta connettersi su internet. Etichetta ovviamente che? Logic Illogic dei Atomic Stuff, distribuzione Andromeda nei negozi. E poi vi invito come ultima cosa a seguirci anche su Facebook, siamo i Violet Gibson e la pagina si trova subito. E allora Jean-Luc e Violet Gibson vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao! Ciao, grazie. The night of Mary and myself. Can you trust in the rock and roll? No fear for Mary and myself. Tonight hell is gonna rise. The game of sorrow doesn't win. You can't confess your lover. You can't confess your lover. You can't confess your lover. What if I come and lick your sisters? Will you run to your teddy boy? I drag it with Mary and myself. Red wake is my rock and roll. Your oxygen must pass your face. You can't control your nightmares. I will become your nightmare. I will become your nightmare. I rush myself, I just can't get enough. Can you read my lips?